3, che mostra come le vecchie conoscenze siano capaci di sorprenderci. Tornata che Maggie fu a casa, sua madre le diede la notizia di un inaspettato atteggiamento preso da zia Glegg. Finché non si era saputo nulla di Maggie, Mrs. Glegg aveva tenuto le persiane mezze chiuse e le tendine abbassate. Sentiva con sicurezza che Maggie era negata, che la sua nipote e legataria potesse aver fatto cosa che feriva l'onore familiare nel suo punto più delicato era molto più improbabile. Quando finalmente ebbe appreso da Tom che Maggie era tornata a casa e saputo da lui quale spiegazione la dava della propria assenza, scoppiò in severi rimproveri contro Tom, che sul conto della sorella ammetteva il peggio prima di esservi forzato. Se non si ha da sostenere la propria parentela fin tanto che si può attribuirle un briciolo di onore, chi di grazia si ha da sostenere? Ammettere con leggerezza in una persona della propria famiglia tale condotta, che forzerebbe a cambiare il testamento, non era mai stato il sistema dei Dodson. E quantunque Mrs. Glegg non avesse mai pronosticato nulla di buono per l'avvenire di Maggie, anche quando altri era forse meno chiaroveggente, tuttavia il buon nome era un tesoro e non era il caso che propri parenti contribuissero a togliere la reputazione alla ragazza e la privassero della protezione familiare per esporla al vituperio della gente, fin tanto almeno che non fosse divenuta decisamente un disonore per la famiglia. Circostanze come quelle non avevano precedenti nell'esperienza di Mrs. Glegg, nulla di simile era mai accaduto prima di allora tra i Dodson, ma qui si trattava di un caso in cui l'ereditaria rettitudine e la personale forza di carattere si trovavano a confluire con le sue idee fondamentali sulla solidarietà familiare, come d'altronde avevano sempre fatto in tutta la sua vita per ciò che concerneva l'equità negli affari di denaro. Litigò con Mr. Glegg, la cui bontà, tutta effusa nella comprensione per Lucy, lo rendeva severo nel giudizio di Maggie, quanto lo stesso Mr. Dean. E montando su tutte le furie contro la sorella Tulliver, che non era venuta subito a chiederle consiglio, si rinchiuse dal mattino alla sera in camera sua col riposo dei santi di Baxter, ricusandosi a tutti i visitatori, finché Mr. Glegg portò da parte di Mr. Dean la notizia della lettera di Stephen. Allora Mrs. Glegg sentì che aveva un degno terreno di battaglia. Allora mise in disparte Baxter e fu disposta a ricevere quanti venivano, mentre Mrs. Tulliver non sapeva far altro che scuotere il capo e piangere e desiderare che piuttosto fosse morto il cugino Abbott, o che venissero quanti funerali volevano, meglio che una cosa simile, che non era mai successa prima di allora, e non si sapeva come comportarsi, e lei non sarebbe mai più potuta rientrare in St. Oaks, perché le conoscenze sapevano tutto. Mrs. Glegg sperava soltanto che Mrs. Wool o chiunque altro avessero avuto il coraggio di venire da lei con le loro storie bugiarde sulla nipote, e avrebbe saputo bene lei che cosa rispondere a quella gente malintenzionata. Tornò ad investire Tom di rimostranze e tanto più severe quanto più salda sentiva ormai la propria posizione. Ma Tom, come tutte le cose immobili di questo mondo, pareva ancora più rigidamente fisso di fronte a questi tentativi di smuoverlo. Povero Tom. Giudicava da ciò che aveva potuto vedere e quel giudizio riusciva già abbastanza penoso per lui. Gli pareva d'aver avuto la certezza di ciò che per anni aveva osservato coi propri occhi, i quali non avevano mai dato segno di vederci male. Vale a dire che il carattere di Maggie era dei più indegni di fiducia e troppo fortemente impresso di cattive tendenze per poter senza pericolo venir trattato con indulgenza. A qualunque costo egli si sarebbe regolato in base a quella certezza. Ma il pensiero di ciò gli amareggiava la vita. Come ciascuno di noi, Tom era imprigionato entro i limiti della propria natura e l'educazione non aveva fatto che scivolare su di lui, lasciando un leggero strato di belle maniere. Se vi sentite inclini a giudicare severamente la sua durezza, ricordatevi che la responsabilità dell'indulgenza pesa su coloro che hanno più larghe vedute. La repulsione che Tom aveva concepita contro Maggie derivava la sua intensità proprio dal loro antico amore di fanciulli, al tempo che intrecciavano insieme le loro piccole dita, e poi dal più maturo senso di unione in un comune dovere e in una pena comune. La vista di lei, come le aveva detto, gli era odiosa. In questo rampollo della famiglia Dodson, zia Glegg trovava una tempra ancor più forte della propria, una tempra in cui il sentimento familiare aveva perduto il suo carattere di solidarietà per assumere un'impronta doppiamente profonda di personale orgoglio. Che Maggie dovesse essere punita, Mrs. Glegg lo ammetteva, non era donna da negarlo, sapeva cos'era la buona condotta, ma punita in proporzione dei torti accertati a suo carico, non di quelli che le venivano buttati addosso da gente estranea alla parentela, e magari desiderosa di mostrare che la propria famiglia valeva di più. Tua zia Glegg m'ha rimproverata, come non aveva mai fatto, cara, disse la povera Mrs. Tulliver quando fu tornata da Maggie, perché non ero ancora andata a trovarla e dice che non toccava a lei di venire da me per la prima. Però mi ha anche parlato da sorella, con quel carattere che ha sempre avuto, così difficile da contentare, Dio mio. Ma mi ha detto di te le parole più buone che io abbia sentite finora, mia piccola. E con tutto che è sempre stata così contraria ad avere una persona di più in casa e dover mettere fuori i cucchiai e tutto il necessario e cambiare le proprie abitudini, mi ha però detto che un rifugio in casa sua lo potrai trovare, se andrai da lei con rispetto e ti difenderà contro la gente che sparla di te, senza averne il diritto. E io le ho risposto che mi pareva non ti sentissi di vedere nessuno tranne che me, tanto sei giù da dispiacere. Ma lei ha detto, male parole io non gliene butterò in faccia. C'è già fuori della famiglia della gente fin troppo disposta a farlo. Le darò invece dei buoni consigli e lei deve mostrarsi umile. E questa è una cosa straordinaria da parte di Jane, perché so ben io come mi rinfacciava sempre tutto quello che io facevo di sbagliato. Il vino d'uva passa che girava male, o le focacce troppo bruciate, e tutto, insomma. Oh, mamma, disse la povera Maggie, rifuggendo dall'idea di ogni contatto che il suo spirito affranto avesse a subire. Dille che le sono tanto riconoscente e andrò a farle visita appena potrò, ma per ora non sono in grado di vedere nessuno, fuorché il dottor Ken. Sono stata da lui, mi consiglierà, mi aiuterà a trovare un'occupazione. Non posso vivere con nessuno, mamma, né essere di peso a nessuno. Dillo a zia Glegg. Debbo guadagnarmi da me il mio pane. Ma non hai saputo nulla di Philip Wakem? Non hai incontrato nessuno che te ne abbia accennato? No, cara. Sono stata invece da Lucy e ho veduto tuo zio. Dice che sono riusciti a farle ascoltare la lettera e che ha riconosciuto Miss Guest e ha fatto delle domande e il dottore crede che cominci a migliorare. Che mondo è mai questo? Quanti guai! Dio mio! La causa è stata il principio e poi tutto si è messo d'improvviso ad andare di male in peggio proprio quando pareva che la fortuna stesse per tornare. Era questa la prima recriminazione che Mrs. Tulliver si lasciava sfuggire con Maggie. Ma già quel colloquio con la sorella Glegg le aveva fatto rinascere la vecchia abitudine. Mia povera, povera mamma, proruppe Maggie col cuore spezzato dalla pietà e dal pentimento, buttando le braccia al collo della madre. Sono sempre stata cattiva con te e non ti ho dato che dei dispiaceri. E ora non fosse stato per me, potevi essere felice. Mia cara, disse Mrs. Tulliver appoggiandosi a quell'ardente giovane guancia. Bisogna che io porti pazienza coi miei figli, non ne avrò più altri. E se mi hanno procurato un brutto destino, bisogna che io voglia bene a questo destino. Non c'è più altro a cui mi possa attaccare. Perché il mio mobilio è andato via da un pezzo e tu cominciavi già ad essere tanto buona, non so capire come tutto sia andato a finire così male. Passarono ancora 2 o 3 giorni e Maggie non sapeva nulla di Philip. L'ansia per lui stava diventando la sua pena dominante. Finalmente ella fece appello al suo coraggio per domandarne al dottor Ken la prossima volta che sarebbe venuto a trovarla. Questi non sapeva neppure se Philip fosse a casa. Il vecchio Wakem era divenuto intrattabile per via di una serie di contrarietà alle delusioni procurategli da quel giovane Jetson, a cui evidentemente era parecchio attaccato. Subito aveva tenuto dietro il crollo delle speranze di suo figlio, dopo che a quelle aveva sacrificato i propri sentimenti e di tal concessione aveva incautamente parlato per St. Ogg's, sicché si mostrava quasi brutale nella sua asprezza allorché qualcuno gli chiedeva del figlio. Ma Philip non poteva essere stato malato, altrimenti avrebbero chiamato il medico e lo si sarebbe saputo. Probabilmente si era allontanato per qualche tempo dalla città. Maggie si sentiva ammalare in questa incertezza e la sua immaginazione cominciò a vivere sempre più insistentemente di ciò che Philip stava soffrendo, che pensava di lei. Finalmente Bob le portò una lettera, senza francobollo, con l'indirizzo tracciato da una mano che la riconobbe familiare fin dai caratteri del suo nome, una mano che aveva scritto quel nome tanto tempo prima su uno Shakespeare tascabile che ella possedeva. La mamma era in sala e Maggie, in preda ad una violenta agitazione, corse al piano di sopra per potersi leggere la lettera da sola. I cigli le palpitavano mentre leggeva. Maggie, credo in voi. So che non avete mai pensato di ingannarmi. So che avete tentato di tener fede a me e a tutti, ne ero certo, anche quando non ne avevo altra prova che il vostro carattere. La notte dopo che vi ebbi lasciato per l'ultima volta, ho patito la tortura. Avevo veduto tanto da convincermi che non eravate libera. Che altri c'era, la cui presenza aveva su di voi un potere che la mia non ebbe mai? Ma tra tutte le istigazioni quasi sanguinarie della rabbia e della gelosia, il mio spirito riuscì a trovare la via per credere alla vostra fedeltà. Ero certo che volevate rimanermi accanto, come avevate detto, che avevate respinto quella persona e vi sforzavate a rinunciarvi, per Lucy e per me. Ma non vedevo via di uscita che non vi fosse fatale, e questo terrore escludeva ogni idea di rassegnazione. Prevedevo che egli non avrebbe voluto lasciarvi, e fin da allora credevo, come credo tuttavia, che la forte attrazione da cui eravate spinti l'uno verso l'altra non proveniva se non da un lato solo dei vostri caratteri, e dipendeva da quelle parziali, isolate influenze del nostro temperamento, donde ha origine mezza la tragedia dell'umano destino. Nel vostro essere avevo sentito vibrare certe corde, di cui sempre avevo avvertito in lui la mancanza. Ma forse mi sbaglio, forse io sento per voi quello che l'artista prova per il tema che ha amorosamente covato entro l'anima. Egli tremerebbe di vederlo affidato ad altre mani, né vorrebbe mai credere che per altri possa contenere tutta la significazione e la bellezza che racchiude in lui. Quel mattino non mi bastò la fiducia in me stesso per vedervi. Ero pervaso di passione egoistica, ero sopraffatto da una notte di lucido delirio. Tempo fa vi dissi che non m'ero mai saputo rassegnare neppure alla mediocrità delle mie doti e come mi sarei rassegnato alla perdita della sola cosa che mai mi sia toccata sulla terra. Ricca di una promessa di felicità così profonda da poter dare un senso nuovo e benedetto alle sofferenze di prima. Promessa d'un altro me stesso che avrebbe sollevato il mio doloroso amore al divino rapimento di un sempre rinascente e sempre soddisfatto desiderio. Ma le angosce di quella notte mi avevano preparato a quanto avvenne prima della seguente. Non fu una sorpresa per me. Ero certo che colui vi aveva persuasa a tutto sacrificargli e con uguale certezza mi aspettavo di avere notizia del vostro matrimonio. Dal mio amore misuravo il vostro e il suo, ma mi sbagliavo, Maggie. C'è in voi qualcosa di più forte che l'amore per lui. Non vi narrerò quanto ho passato in questo frattempo, ma pur tra la più profonda agonia, pur tra quelle terribili torture che l'amore deve durare prima che possa essere spogliato da ogni desiderio egoistico, il mio amore per voi bastò da solo e senza altri motivi a trattenermi dal suicidio. Ma il più forte del mio egoismo non reggevo tuttavia all'idea di sopraggiungere come un'ombra di morte alla festa della vostra felicità. Non reggevo all'idea di lasciare questo mondo in cui voi ancora vivevate e ancora potevate aver bisogno di me, nella fede che vi avevo promessa. C'era anche questo, attendere e soffrire. Maggie, e ciò valga come prova di quanto ora vi scrivo, a rassicurarvi che nessuna delle angosce che io posso avere sofferte per voi è stata un troppo caro prezzo a paragone con la nuova vita in cui l'amore per voi m'ha introdotto. Voglio che dimettiate ogni rammarico per la pena che mi avete cagionato. Io sono stato allevato nel senso della privazione. Non mi sono mai attesa la felicità. E nel conoscervi, nell'amarvi, ho trovato, come trovo tuttora, di che riconciliarmi con la vita. Voi siete stata per i miei affetti quel che la luce, quel che il colore sono per i miei occhi, quel che la musica è per il mio intimo orecchio. Voi avete innalzata una torbida irrequietezza alla fervida coscienza di uno scopo. La nuova vita che mi si è schiusa nel preoccuparmi delle vostre gioie e delle vostre pene, più che di quelle che sono direttamente mie, ha trasformato l'acre e ribelle malcontento del mio spirito in quella volontaria rassegnazione donde nasce la profonda simpatia. Nulla, credo, tranne un così completo e intenso amore, ma avrebbe potuto iniziare quella vita più aperta che sempre più si accresce col far proprie le vite degli altri. Cosa da cui finora mi aveva distolto una sempre presente e dolorosa coscienza di me stesso, e talvolta penso addirittura che questo dono di trasferirsi nelle altrui vite, venutomi dall'amarvi, potrà diventare per me una forza nuova. Così, mia sola cara, a dispetto di tutto, voi siete stata la benedizione della mia vita. Non vi opprima rimpianto per me, Io piuttosto dovrei rimproverarmi d'avervi imposto i miei sentimenti e di avervi spinta a parole in cui avete sentita una catena. A quelle parole volevate tener fede e l'avete tenuta. Misuro il vostro sacrificio da ciò che ho compreso in quella sola mezz'ora passata alla vostra presenza allorché sognavo che poteste amarmi più di ogni altro. Ma Maggie, io non ho verso di voi altro diritto che ad un affettuoso ricordo. Per qualche tempo sono rifuggito dallo scrivervi perché temevo finanche il sospetto di volermi fare avanti con voi e rinnovare così il mio primo errore. Ma voi non mi fraintenderete. So che dobbiamo rimanere separati per molto tempo. Crudeli dicerie, se non altro, ci costringerebbero a farlo, ma io non mi allontanerò. Il luogo ove voi siete è il solo in cui deve vivere il mio spirito, dovunque io possa andare. E ricordatevi che io sono immutabilmente vostro. Non già con desideri egoistici, anzi con una devozione che esclude simili desideri. E Dio vi conforti, mia amata, mia generosa Maggie. Se tutti gli altri vanno mal compresa, ricordatevi che mai siete stata sospettata da taluno il cui cuore vi riconobbe or son 10 anni. Non credete a chi vi dice che sono malato perché non mi si vede fuori casa. Ho avuto soltanto delle emicranie nervose, non peggiori di quelle che già a volte m'eran venute in passato, ma questo caldo troppo intenso mi persuade a rimanere in completo riposo durante la giornata. Mi sento abbastanza forte per obbedire al minimo cenno da cui apprenda di potervi essere utile con le parole o con gli atti. Vostro per sempre, Philip Wakem. Maggie si inchiozzava, inginocchiata accanto al letto, stringendosi quella lettera sul cuore, mentre i suoi pensieri tornavano di continuo a raccogliersi in un solo lamento sommesso e sempre uguale. Mio Dio, c'è nell'amore una felicità che valga a farmi dimenticare la loro pena. 4. Maggie e Lucy. Verso la fine della settimana il dottor Ken aveva concluso che c'era un solo modo con cui egli potesse assicurare a Maggie una confacente esistenza in St. Oaks. Malgrado i suoi 20 anni di esperienza come pastore di parrocchie, si sentiva a sgomento dell'ostinazione con cui, ad onta di ogni evidenza in contrario, persistevano a circolare le accuse contro di lei. Fino allora egli era stato adorato e consultato, anche più di quanto gli potesse riuscire gradito, ma adesso, nel tentativo di aprire a favore di Maggie Tulliver gli orecchi delle donne alla ragione e le loro coscienze alla giustizia, si trovava d'improvviso esautorato, perlomeno quanto sarebbe potuto esserlo ove si fosse provato a far modificare la foggia dei cappellini. Certo, non si poteva contraddire il dottor Ken, lo si ascoltava in silenzio, ma quando abbandonava la camera, le opinioni dei suoi ascoltatori, messe a confronto con quelle di prima, davano esattamente lo stesso risultato. Innegabilmente Miss Tulliver si era comportata in modo biasimevole. Questo non lo poteva negare nemmeno il dottor Ken. Ma allora come mai la giudicava con tanta indulgenza da dare quella favorevole interpretazione a tutto ciò che essa aveva fatto? Anche nell'ipotesi che richiedeva la maggior dose di buona fede, ciò che nessuna delle cose dette sul conto di Miss Tulliver fosse vera. Tuttavia, quelle cose, dal momento che erano state dette, la mettevano in un certo odore da farla respingere da ogni donna zelante della propria reputazione, nonché dalla società. Prendere Maggie per mano e dirle: «Non voglio credere del male di voi senza le prove». Le mie labbra non ne proferiranno, i miei orecchi vi rimarranno chiusi. Sono un mortale anch'io, peccatore, soggetto alle cadute, suscettibile di fallire, anche nei miei sforzi più sinceri. La vostra sorte è stata più dura della mia, la vostra tentazione più grande. Aiutiamoci l'un l'altro a resistere e a procedere senza più cadute. Ciò fare avrebbe richiesto coraggio, profonda compassione, conoscenza di se stessi, generosa fiducia. Avrebbe richiesto uno spirito che non gustasse la credine della maldicenza, che non si sentisse inorgoglito nel condannare, che non si ubriacasse di grandi paroloni fino a credere che la vita possa avere una finalità morale e un'alta religiosità, senza che si debba lottare per una piena verità e giustizia, senza amore, verso tutte le creature che attraversano il nostro sentiero. Le signore di St. Oaks non erano frastornate da vaste concezioni speculative, ma avevano un'astrazione prediletta, chiamata la società, che serviva a mettere le loro coscienze perfettamente in pace quando dovevano fare ciò che appagava il loro egoismo, pensare e dire le peggiori cose di Maggie Tulliver e volgerle le spalle. Si intende il disappunto del dottor Ken, allorché d'improvviso, dopo 2 anni di superflui incensamenti da parte delle sue parrocchiane, scoprì che queste conservavano le loro vedute in opposizione alle sue. Dunque voleva dire che le conservavano anche in opposizione ad una più alta autorità, che avevano venerato da ancor più lungo tempo. Tale autorità aveva fornito una risposta molto esplicita alle persone capaci di indagare donde abbiano origine i loro doveri sociali e disposte a considerare quell'origine da un punto di vista un po' largo. Non già che in St. Oaks mancassero donne di una tal quale tenerezza di cuore e di coscienza, probabilmente anche St. Oaks aveva la sua equa proporzione di bontà umana, come qualunque altra piccola città mercantile di quei tempi. Ma fino a quando gli uomini buoni non siano tutti coraggiosi, dobbiamo aspettarci di trovare della timidezza nella maggior parte delle donne buone, tanta timidezza da farle perfino sospettare della giustizia dei loro impulsi migliori, allorché questi le mettano in minoranza. Opinione generale dello spirito maschile di St. Oaks era che non bisognasse impicciarsi dei modi come le donne si trattavano fra di loro. E così, tutta la gente a cui il dottor Ken si era rivolto, nella speranza di procurare a Maggie un po' di benevolenza o una qualche occupazione, gli aveva dato un disinganno. Mrs. James Torrey non poteva pensare di prendere Maggie come bambinaia nemmeno provvisoria. Una giovane sulla quale si erano dette cose di quel genere e su cui gli uomini motteggiavano. E Miss Kirk, che aveva una malattia alla spina dorsale e abbisognava di una lettrice e dama di compagnia, era assolutamente convinta che la mentalità di Maggie doveva essere di tal specie che lei, per parte sua, non si sarebbe arrischiata ad averci rapporti. Perché Miss Tulliver non accettava la protezione offerta da sua zia Glegg? Non s'addiceva una ragazza come lei di rifiutarla, o meglio, perché non lasciava il paese e non andava a impiegarsi dove non fosse conosciuta. Che portasse le sue pericolose inclinazioni tra famiglie strane e sconosciute a St. Oaks non aveva apparentemente così grande importanza. Doveva essere ben temeraria e indurita per voler rimanere in una parrocchia dove tutti gli occhi erano fissi su di lei e si era tanto mormorato sul suo conto. Di fronte a siffatta opposizione, il dottor Ken, che era di tempra assai ferma, cominciò, come qualunque uomo fermo avrebbe fatto, a impegnarsi con una forza di decisione superiore a quella richiesta dallo scopo propostosi. Egli stesso aveva bisogno, durante la giornata, di una governante per i suoi bambini più piccoli e, quantunque avesse dapprima esitato a offrire quel posto a Maggie, la risoluzione di protestare con tutta la forza del suo carattere di uomo e di sacerdote contro le calunnie che la schiacciavano e ne facevano una reietta, valse finalmente a deciderlo. Maggie accettò con gratitudine un'occupazione che le creava dei doveri oltre a darle da vivere. I suoi giorni ormai sarebbero stati pieni e le serate solitarie avrebbero rappresentato un gradito riposo. Non avrebbe avuto più bisogno che sua madre si sacrificasse a star con lei e Mrs. Tulliver venne persuasa a tornare al mulino. Ma ecco, si cominciò a propalare che il dottor Ken, per quanto apparso fino allora un modello, aveva le sue manie, forse anche le sue debolezze. Lo spirito maschile di St. Oaks sorrideva divertito e non si meravigliava che il dottor Ken si compiacesse di vedere ogni giorno un bel paio d'occhi o fosse disposto ad una così indulgente considerazione del passato. Lo spirito femminile, che a quel tempo godeva di minore influenza, considerò la cosa sotto un punto di vista più melanconico. Se il dottor Ken si fosse lasciato sedurre a sposare quella Miss Tulliver, già, non era mai una cosa sicura accordare troppa fiducia, sia pure al migliore degli uomini. Un apostolo era caduto e ne aveva poi pianto amaramente, e quantunque la rinnegazione di Pietro non fosse un precedente calzante, il pentimento poteva anche esserlo. Non erano molte settimane che Maggie faceva la sua quotidiana passeggiata al rettorato, e già, della tremenda possibilità che la potesse un giorno o l'altro diventare la moglie del pastore, s'era così spesso discorso in confidenza che le signore avevano cominciato a discutere come si sarebbero dovute comportare verso di lei in simile posizione. Perché una mattina il dottor Ken, lo si era saputo, era rimasto seduto mezz'ora nello studio mentre Miss Tulliver stava dando le sue lezioni. Anzi, vi era rimasto tutte le mattine. Una volta l'aveva riaccompagnata a casa. Quasi sempre la riaccompagnava a casa. E se no andava a farle visita alla sera. Che creatura astuta essa era mai! Che madre per quei bambini! C'era di che far trasalire la povera Mrs. Ken nella sua tomba a vederli affidati a una simile ragazza, così poche settimane dopo la sua morte. E lui era così insensibile alle convenienze da sposare quella ragazza prima che fosse passato l'anno? Lo spirito maschile era sarcastico e credeva di no. Le Miss Guest trovavano un sollievo alla pena di dover assistere ad una follia del loro rettore, così almeno il loro fratello sarebbe stato salvo. Effettivamente conoscevano troppo bene la tenacia di Steven per non rimanere in continua apprensione che gli facesse ritorno per sposare Maggie. Non che fossero tra coloro che mettevano in dubbio la lettera del fratello, ma non avevano fiducia che Maggie fosse capace di rimanere ferma nella propria rinunzia. La sospettavano di essersi ritirata di fronte alla fuga piuttosto che di fronte al matrimonio e di trattenersi ora in St. Oaks contando sul ritorno di lui. Antipatica l'avevano trovata sempre, eh? Adesso la trovavano astuta e orgogliosa e fondavano un simile giudizio su tanto buone ragioni quante ne abbiamo probabilmente voi ed io. In passato non erano state granché entusiaste della progettata unione con Lucy, ma adesso la paura di un matrimonio tra Steven e Maggie aggiungeva il proprio peso alla genuina pietà e indignazione per la gentil fanciulla ripudiata, inducendole a desiderare che il fratello tornasse a lei. Non appena Lucy fosse in grado di lasciarla a casa, sarebbe andata al mare con le Miss Guest per trovar sollievo dal caldo opprimente di quell'agosto. E tra i loro piani c'era quello che si potesse persuadere Steven a raggiungerle. Al primissimo accenno del pettegolezzo concernente Maggie e il dottor Ken, una lettera delle Miss trasmise al fratello la novità. Dalla madre, o da zia Glegg o dal dottor Ken, Maggie aveva frequenti notizie dei graduali progressi di Lucy verso la guarigione e i suoi pensieri correvano di continuo alla casa dello zio Dean. Agognava un incontro con Lucy, non fosse stato che per 5 minuti, per dire una parola di pentimento, per ricevere direttamente dallo sguardo e dalle labbra di Lucy l'assicurazione che ella non credeva a un volontario tradimento da parte di coloro in cui aveva riposto amore e fiducia. Ma sapeva che quand'anche lo sdegno dello zio non le avesse chiuso la porta in faccia, l'emozione di un tale incontro sarebbe stata proibita a Lucy. Vederla solamente, anche senza parlarle, le sarebbe già stato di qualche sollievo, da che viveva sotto l'incubo di un volto crudele nella sua stessa gentilezza, un volto che l'aveva veduto rispondere al proprio con lieti e dolci sguardi di fiducia e di amore fin dai crepuscoli della memoria. Ed ecco, una prima ferita del cuore lo mutava in un triste volto, stanco, e col passar dei giorni quella pallida immagine diventava sempre più distinta. Il ritratto si faceva via via più parlante e definito sotto la mano vendicatrice del rimorso. I dolci occhi castani, col loro sguardo di pena, erano per sempre fissi su Maggie, e più la trafiggevano perché non poteva scorgere in essi alcun rancore. Ma Lucy non era per anche in grado di andare alla chiesa o in un altro luogo dove Maggie la potesse vedere, e anche questa speranza andò perduta allorché la zia Glegg portò la notizia che entro pochi giorni Lucy sarebbe certamente partita per Scarborough con le Miss Guest, dalle quali si era saputo che contavano incontrarsi là, col fratello. Solo quelli che hanno provato che cosa siano i più atroci conflitti interiori possono intendere ciò che Maggie sentiva. Quando alla sera si ritrovò sola, dopo d'aver udito da Mrs. Glegg tali notizie. Quelli solo che han provato che cosa sia aver paura dei propri desideri egoistici, così come la madre che veglia può aver paura della pozione sonnifera che darebbe tregua alla sua pena. Stava seduta senza candela nel crepuscolo, con la finestra spalancata sul fiume, e la sensazione di un calore accasciante s'aggiungeva indistinguibilmente al peso della sua sorte. Seduta davanti alla finestra, un braccio sul davanzale, guardava distratta il correre del fiume più rapido col crescere della marea e si sforzava di discernere ancora, atteggiata a una tristezza senza rimproveri, quel dolce viso che adesso pareva involarsi di momento in momento e venir nascosto da una figura che si frapponeva e faceva il buio. All'udire la porta che si apriva, pensò che fosse come al solito Mrs. Jackin col pranzo, e quella ripugnanza dei discorsi banali che s'accompagnava con l'abbattimento e la desolazione la trattenne dal volgersi a dire che non aveva bisogno di nulla. Di sicuro la buona piccola Mrs. Jackin avrebbe espresso qualche affettuoso commento, ma il momento dopo, senza che si fosse accorta di alcun rumore di passi, sentì una mano leggera sulla spalla e udì accanto a sé una voce che diceva: Maggie. Quel volto era là, mutato ma tanto più dolce, quegli occhi castani con la loro tenerezza che straziava il cuore. Maggie, disse la dolce voce. Lucy, rispose una voce in cui vibrava un penetrante suono di angoscia, e Lucy buttò le braccia al collo di Maggie e appoggiò la sua pallida guancia contro una fronte che scottava. Sono scappata, disse Lucy quasi in un sussurro, sedendosi presso Maggie e prendendole la mano, mentre il babbo e tutti gli altri erano via. Alice è venuta con me, l'ho pregata di aiutarmi lei, ma non posso fermarmi che un momento perché è tanto, tanto tardi. Era più facile dir questo per cominciare che qualunque altra cosa. Rimasero a guardarsi l'una con l'altra. Pareva che quell'incontro dovesse finire senza altri discorsi, perché discorrere era tanto difficile. Ciascuna sentiva che ci sarebbe stato qualcosa di bruciante nelle parole che rievocassero il male irreparabile, ma ben presto, mentre Maggie seguitava a guardar Lucy, ogni pensiero chiaro fu travolto da un'onda di affettuoso pentimento e le parole proruppero con un singhiozzo: Dio ti benedica di essere venuta, Lucy. Dopodiché i singhiozzi di entrambe si infittirono. Maggie, cara, consolati, diceva ora Lucy, tornando ad appoggiare la propria guancia contro quella di Maggie. Non ti torturare. E rimase silenziosa, sperando di calmare Maggie con quella gentile carezza. Non ho mai voluto ingannarti, Lucy, disse Maggie non appena poté parlare. È stata sempre una tale miseria per me provare qualcosa che desideravo tu non conoscessi, ma era perché credevo che tutto si potesse reprimere e tu non dovessi mai accorgerti di nulla che ti ferisse. Lo so, cara, disse Lucy, so che non hai mai voluto rendermi infelice. È una disgrazia che è caduta su noi tutti. Tu hai da soffrire più di me. E hai rinunciato a lui quando hai fatto una cosa che deve essere stata tanto, tanto difficile. Tornarono a tacere per qualche istante, sedendo con le mani intrecciate, guancia contro guancia. Lucy, riprese Maggie, ha lottato anche lui. Voleva esserti fedele, tornerà da te, perdonalo. Allora sarete felici. Queste parole erano state strappate fuori dalla più profonda anima di Maggie, con uno sforzo simile alla stretta convulsiva di un uomo che anneghi. Lucy tremò e rimase in silenzio. Fu picchiato leggermente alla porta. Era Alice, la cameriera, che entrò e disse: Non ho il coraggio di rimanere più a lungo, Miss Dean. Se ne accorgeranno e si irriterranno talmente che rientrate così tardi. Lucy si alzò e disse: Sta bene, Alice, un minuto. Devo partire venerdì, Maggie, soggiunse allorché Alice ebbe richiusa la porta. Quando tornerò e sarò forte, mi lasceranno fare quel che vorrò. Allora potrò venire da te quando mi piacerà. Lucy, disse Maggie con un altro grande sforzo, prego continuamente Dio di non doverti mai più cagionare del dolore. Strinse la piccola mano che teneva nella propria e alzò gli occhi verso il viso che era chino sul suo. Lucy non dimenticò mai lo sguardo. Maggie, disse con voce sommessa in cui era la solennità di una confessione, tu sei migliore di me. Io non posso. Si interruppe e non aggiunse altro, ma si strinsero ancora una volta, in un ultimo abbraccio.